e saltano altre due partite di calcio, Siena-Catania e Bologna-Fiorentina, sotto accusa stadi inadeguati e calendario. Riforma del mercato del lavoro, sindacati e Confindustria riuniti in vista dell'incontro di domani a Palazzo Chigi. Dall'antitrust europeo stop alla fusione fra la borsa di New York e quella di Francoforte, spread sotto i 400 punti, Facebook verso la quotazione a Wall Street. Buona giornata dalla redazione di GR24 da Maria Piera Ceci. La neve dunque sta cadendo da oltre 20 ore su circa 1000 chilometri di strade. Fa un freddo polare in molte città. Che l'ondata di maltempo stesse per arrivare era annunciato da giorni, alla fine dunque è arrivata. Facciamo il punto in diretta con l'ingegner Paola Pagliara, responsabile del servizio idrogeologico del Dipartimento della Protezione Civile. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, ci faccia la fotografia di questa Italia gelata. Allora, in queste ore le precipitazioni nevose più abbondanti si stanno registrando in Emilia-Romagna, quindi anche a bassa quota, in pianura, così come in Abruzzo e in quote collinari, anche in molte regioni d'Italia, anche del sud, in Basilicata, in Calabria, però a quote più elevate. Come lei stessa ha sottolineato, era abbondantemente annunciata e quindi le strutture operative, in particolare il Comitato di Viabilità presso il Ministero dell'Interno erano attivate, si sono attivate per tempo e non ci sono stati al momento registrate particolari criticità pervenute alle nostre sale operative. Ecco, possiamo dire, signora Pagliara, che la notizia di oggi è proprio questa, che in un'Italia che alla prima neve si blocca, città che vanno in tilt, eccetera, in realtà i piani di emergenza stanno funzionando? Quando sono attivati i piani di emergenza di solito funzionano e bisogna anche dire che non sempre i fenomeni purtroppo che abbiamo in Italia sono così prevedibili come questa perturbazione artica che da giorni si preannunciava. Bisogna anche dire che non bisogna abbassare la guardia perché sarà lunga. Domani ci sarà un momento, una leggera pausa, però ancora ci saranno precipitazioni nevose in buona parte dell'Italia centro-meridionale, sia pure non particolarmente consistenti, ma da domani sera stesso una nuova perturbazione, sempre con queste caratteristiche di temperature molto fredde, interesserà di nuovo l'Italia, buona parte dell'Italia, dalla Sardegna fino all'Emilia-Romagna, fino alla Sicilia, portando di nuovo neve, di nuovo freddo che avremo ancora almeno fino al lunedì, con la caratteristica che non, in alcune zone dell'Italia non si potrebbe non raggiungere mai temperatura al di sopra dello zero. Quindi non finisce qua. Le gelate saranno, diciamo, persistenti e quindi anche per il sistema di protezione civile, per i servizi essenziali, eccetera, e sono fenomeni che non sono da sottovalutare. Grazie all'ingegner Paola Pagliara, responsabile del servizio idrogeologico del Dipartimento della Protezione Civile. Dunque non finisce qua e nel frattempo, a proposito di piani di emergenza che stanno funzionando, scuole chiuse a Bologna, questo è stato deciso, da domani fino a sabato. Sulla situazione più in particolare, più nel dettaglio sulle nostre strade, aspettiamo il collegamento con Strade in Diretta alle 13:15. Intanto il punto da Delfina Di Stefano, vicequestore aggiunto della Polizia Stradale, al microfono di Valeria De Rosa. Per favorire la circolazione, i prefetti delle regioni Toscana, Marche, Umbria ed Emilia Romagna hanno adottato delle ordinanze che hanno sospeso temporaneamente la circolazione dei mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate. Questo ha sicuramente favorito la fluidità del traffico un po' in tutte le aree, però al ridosso di queste si sono creati dei punti di accumulo dei mezzi pesanti che stanno attendendo la ripresa della circolazione. Quindi il nostro invito, fino a quando questo non sarà ripreso, è di non avvicinarsi alle aree interdette al transito per non ulteriormente saturare le aree già colme. Questa dunque è la situazione sulle strade, non si può dire però che non ci siano invece disagi per quanto riguarda le ferrovie. Si registrano infatti ritardi su molte linee. Trenitalia ha attivato il piano neve, in Emilia-Romagna è scattata la fase di emergenza 3. la più grave. Ora invece ci colleghiamo con Torino e con Filomena Greco del Sole 24 Ore per sentire come vanno le cose sotto la mole. Buongiorno Filomena. Sì, buongiorno a voi. A Torino sono attesi nelle prossime ore tra i 10 e i 15 centimetri di neve, questo è l'ultimo aggiornamento. Le strade sono abbastanza libere, però le temperature sotto lo zero creano problemi col ghiaccio, soprattutto lungo i marciapiedi, lungo le vie secondarie. Tutte le strade comunque sono aperte, al lavoro ci sono più di 500 spalatori e mezzi spargisale, regolarmente aperte anche scuole e uffici, tranne che ad Alessandria, questa è la segnalazione. Occhi puntati sulle Molinette di Torino, che è l'ospedale più grande del Piemonte, un ospedale molto vecchio. Ieri la direzione ha predisposto un piano di emergenza sull'impianto termico ed è stata sospesa l'attività di alcuni blocchi operatori fino a domenica. Un piano che ha naturalmente scatenato polemiche, reazioni, che però non sta incidendo, secondo la direzione dell'ospedale, sulla normale attività del polo sanitario. Comunque è prevista una conferenza stampa nel pomeriggio per fare il punto sulla situazione. Ricadute negative, come dicevate anche voi, sul trasporto ferroviario, segnalate anche in Piemonte, 15 treni soppressi, una cinquantina in ritardo. Non mancano, dicevamo, le polemiche politiche per la gestione dell'emergenza, tanto che la Lega Nord sta valutando l'ipotesi di una class action dei cittadini che hanno subito danni per avere così dei risarcimenti. Da Torino è tutto. Grazie, grazie a Filomena Greco. E non va tanto meglio nel resto d'Europa. Negli ultimi giorni almeno 60 persone sono morte in Polonia, Romania e Bulgaria, 45 nella sola Ucraina, dove la colonnina di mercurio è scesa sotto i 30 gradi. In Russia sono circa 30 i morti dall'inizio dell'inverno. L'ultimo è deceduto poche ore fa. La maggioranza delle vittime sono senza tetto. E dopo i rinvii decisi ieri, Parma, Juventus in A, Samp, Empoli e Modena, Albino, Lecce in B, oggi saltano altre partite. Rinviata Siena, Catania e Bologna, Fiorentina. Lo ha deciso il gruppo operativo per la sicurezza. Ed è polemica per i calendari del periodo e degli stadi inadeguati. La Lega dovrebbe decidere date e orari con calciatori ed allenatori, sostiene l'Asso Calciatori. Sentiamo il segretario generale Gianni Grazioli al microfono di Maria Luisa Pezzali. Siamo nel periodo invernale più freddo, i cosiddetti giorni della merla, quindi può anche starci che arrivi l'inverno. Già in passato l'ex presidente, l'attuale presidente onorario Campana, si era sempre battuto per ridurre al minimo al nord gli anticipi, posticipi invernali. Forse magari, sedendoci a un tavolino, senza fare polemiche, da qui in avanti sarebbe bene consultare anche l'associazione calciatori, i calciatori stessi, per vedere di evitare magari di trovare delle date che poi possono portare a situazioni dispiacevoli queste per i calciatori, ma soprattutto per il pubblico che non può andare allo stadio. Le polemiche in queste ore riguardano anche gli stadi, strutture vetuste. Ma noi in questo contiamo molto poco, perché è un problema di natura prettamente politico e che riguarda le società, ma ovviamente siamo favorevolissimi affinché questa famosa legge sugli stadi giunga a buon fine, perché girando anche noi spesso gli altri paesi europei vediamo decisamente che siamo molto molto indietro con stadi di vetusti. Fra gli accorgimenti tecnici, la serpentina sotto il campo per impedire la formazione del ghiaccio, ma non solo. Beh, quella della serpentina è una vecchia battaglia sempre dell'associazione calciatori, che ricordo più volte ha segnalato in Lega anche in passato, perché c'è il problema anche dei campi ghiacciati. Anche quando non nevica ci sono molti molti campi con il freddo ghiacciati, che mettono a repentaglio l'incolumità fisica dei giocatori e poi, ripeto, con il freddo anche gli stessi spettatori. Al di là delle serpentine bisognerebbe che gli stadi abbiano anche delle coperture adeguate. Io ho visto molti stadi anche in Germania e in Olanda, sono stadi chiusi che all'occorrenza si possono aprire. L'antitrust europeo boccia la fusione fra NYSE, Euronext e Deutsche Börse, la borsa di New York e quella di Francoforte. La Commissione ha votato sì al blocco dell'operazione per paura di una concentrazione eccessiva del mercato dei derivati. Ma sentiamo come vanno questa mattina mercati e spread, lo facciamo con la nostra Deborah Rosciani. Sì, allora intanto questa mancata fusione, appunto almeno per il momento, non è detto che la questione si riproponga al più presto, non influisce in borsa. Oggi è una giornata di rialzi molto sostenuti, sia per Piazza Affari che per le borse europee. Ad influire positivamente il dato sulle PMI delle attività manifatturiere in Cina, che è risultato in crescita in misura superiore alle attese, e questo tra l'altro oggi ha portato sulle borse, nonostante la mattinata si sia aperta con un po' più di incertezza a causa degli interminabili negoziati sul debito greco e anche a causa della situazione incerta in Portogallo, dove oggi era in attesa un'asta di titoli di Stato che si è conclusa poco fa, è riuscita a con successo e peraltro il Portogallo è riuscito a collocare sul mercato queste obbligazioni a breve scadenza con rendimenti in ribasso, quindi un po' più di serenità almeno momentanea anche per il Portogallo. Bene anche il quadro obbligazionario italiano, perché il differenziale di rendimento fra i titoli italiani decennali e il Bund tedesco è sceso fino a 391 punti base, adesso intorno a 394, rivedendo i minimi da dicembre, con il rendimento del BTP decennale che ha toccato il 5,74%, in riduzione anche gli spread tra la Germania e gli altri paesi in difficoltà nell'Eurozona, come la Spagna per l'appunto. Milano sta guadagnando il 2,36%, volano i titoli bancari, più 8% per Monte dei Paschi per il Banco Popolare, più 7% per Mediobanca, più 6% per la Popolare di Milano, bene quindi tutto il comparto. Bene anche Fiat Industrial, più 3,74%, il gruppo ha comunicato i suoi risultati questa mattina, utili e ricavi in crescita, già ieri erano stati piuttosto soddisfacenti i dati della controllata americana Case New Holland. È tutto. Grazie a Deborah Rosciani. È da segnalare che oltreoceano si attende per oggi il deposito presso la SEC del dossier preliminare per la quotazione a Wall Street di Facebook, che potrebbe valere 5 miliardi di dollari. Torniamo in Italia, questa mattina all'inaugurazione dell'anno giudiziario al Consiglio di Stato. Oltre 22.000 ricorsi pendenti al Consiglio di Stato, 440.000 presso i TAR. Anche per la giustizia amministrativa la principale criticità è la mole di arretrato. Il presidente del Consiglio di Stato, Pasquale Delise, traccia così un bilancio del suo settore, sottolineando gli sforzi compiuti che hanno condotto negli ultimi anni ad un aumento della produttività. Ai TAR nel 2011 sono pervenuti 55.000 ricorsi e ne sono stati definiti oltre 120.000, un bilancio dunque inattivo, ma evidentemente non basta. Servono più risorse e più organico, dice Delise, aggiungendo che una forte ed efficiente pubblica amministrazione è la condizione necessaria per uno Stato di diritto, ma anche per uno sviluppo economico. Il Presidente del Consiglio di Stato sottolinea poi che è falso che la giustizia amministrativa sia corresponsabile della crisi della pubblica amministrazione, in quanto ne coprirebbe le principali disfunzioni. Siamo abituati agli attacchi, dice, ma quest'ultimo appare quantomeno singolare, visto che il giudice amministrativo cura, ove possibile, le patologie dell'amministrazione, fornendo indirizzi per migliorarne l'esercizio. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Nessun parallelo fra Tangentopoli e l'ex tesoriere della Margherita Luigi Lusi, finito al centro di un'indagine sull'utilizzo dei fondi destinati al partito. A parlare così il leader di Italia dei Valori, Antonio Di Pietro. Il punto con Elisabetta Fiorito. Sì, proprio così, Piera, ma il PD è sempre più scosso dal caso dell'ex tesoriere della Margherita Luigi Lusi, accusato di aver intascato 13 milioni di euro del partito per bonifici a se stesso e appropriandosi di immobili di prestigio tra il 2008 e il 2011. Il senatore democratico ha già confessato e ha promesso di restituire i soldi. Gli ex della Margherita, Carra e Lusetti, stavano già pensando di intentare una causa per l'eredità del partito. Si va verso l'espulsione di Lusi dai democratici, il vice segretario del PD Enrico Letta chiede di riunire al più presto l'organo di gestione della Margherita per i necessari chiarimenti. Di fronte ad una situazione simile, dice, non si può perdere più un minuto. Per Deborah Serracchiani, chi ruba non può far parte del Partito Democratico, mentre Vannino Chiti chiede di riformare il finanziamento elettorale dei partiti. Dall'opposizione Sandro Bondi del PDL attacca: alcuni politici usano due pesi e due misure. Se questa vicenda di inaudita gravità avesse coinvolto un esponente del mio partito, si sarebbe scatenato l'inferno. E per il momento qui da Roma è tutto, per studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito. E restiamo a Roma per una notizia battuta in questi minuti dalle agenzie. Rapina in una gioielleria in pieno centro a Roma, fra via del Corso e Piazza di Spagna. Due uomini incappucciati sono entrati nel negozio minacciando con una pistola le commesse e portando via diversi preziosi anche dalle vetrine. Nevica e fa freddo, ma i piani di emergenza funzionano, i disagi al momento sono limitati, scuole chiuse a Bologna fino a sabato. E saltano altre due partite di calcio, Siena-Catania e Bologna-Fiorentina, sotto accusa stadi inadeguati e calendario. Dall'antitrust europeo stop alla fusione fra la borsa di New York e quella di Francoforte, spread sotto i 400 punti, Facebook verso la quotazione a Wall Street. E ripartiamo dall'incontro fra Confindustria e sindacati in vista di quello invece domani a Palazzo Chigi sulla riforma del mercato del lavoro. In diretta da Roma, Vincenzo Miglietta. ultimo giorno un incontro, quello tuttora in corso, convocato per individuare le linee comuni da presentare domani al governo. Intorno al tavolo della foresteria di Confindustria ci sono i leader degli industriali, Emma Marcegaglia, il vice Bombassei e poi i segretari di CGIL, CISL, UIL, Camusso, Bonanni ed Angeletti. Come detto, si sta cercando di limare le varie posizioni per presentarsi così con più forza al tavolo di Palazzo Chigi dopo la falsa partenza della scorsa settimana. Tanti i temi di discussione, flessibilità in entrata con una disponibilità a ragionare sul contratto di apprendistato, come chiedono i sindacati, invece che sul modello del contratto unico. Ancora riforma degli ammortizzatori sociali, su cui si è acceso lo scontro alla prima riunione del tavolo, e poi punto più delicato che resta sullo sfondo della trattativa, la flessibilità in uscita e l'articolo 18. Chiuderemo la riforma del mercato del lavoro entro marzo, assicura intanto il ministro del welfare Elsa Fornero, che ricorda: la riforma del mercato del lavoro la pensiamo per aumentare soprattutto i posti per i giovani e le donne. La disoccupazione, dice ancora il ministro, è la mia principale preoccupazione. E da Roma è tutto. Grazie a Vincenzo Miglietta. Eurofighter contro Rafale, affari miliardari in corso, e quando il cliente si chiama India gli interessi economici spaccano letteralmente gli interessi europei. Qui accanto a me Gigi Donelli. Sì, buongiorno Piero, un saluto agli ascoltatori. Effettivamente l'ordine che sarebbe chiuso, quando si parla di ordine di caccia a bombardieri, di solito dal momento in cui esce la notizia alla conferma passano più o meno una decina di mesi. Per 126 caccia a bombardieri Rafale effettivamente sembra arrivata in un momento impeccabile, soprattutto per il presidente Sarkozy. 126 Rafale significa circa tra i 10 e i 12 miliardi di euro di ordine, e dunque migliaia di posti di lavoro in un'industria, quella dell'aeronautica e dell'aerospaziale, in cui i francesi sono evidentemente molto forti. Smacco dall'altra parte per Gran Bretagna, Germania, Italia e Spagna. In realtà questi sono i paesi che costituiscono il gruppo dell'Eurofighter. Certo, non è una novità assoluta, in realtà gli indiani sono già clienti storici dei francesi con Mirage, e in particolare la Francia negli ultimi tempi è molto attiva sul fronte delle commesse militari. Basterà citare la cessione di 5 Mistral, navi molto importante, alla flotta russa. Insomma, business as usual, che nel settore militare, nonostante la crisi, vanno sempre molto forte. Ecco Gigi, ma a cosa servono questi 126 cacciabombardieri al governo di Nuova Delhi? Naturalmente, diciamo, la risposta formale è rinnovare appunto la flotta e gli armamenti. Certo che, vedendo la posizione indiana, il grande potenziale rivale è la Cina. La Cina, con cui non dimentichiamo nel 62 ci fu guerra sulla frontiera, e dove ancora ci sono parecchi di chilometri di frontiere non determinate. Naturalmente due colossi che hanno altre priorità, ma insomma a nord c'è appunto il gigante cinese. Grazie a Gigi Donelli. Restiamo all'estero. Il Papa sarà a Cuba in marzo e la figlia di Fidel Castro parla della sua conversione. Sono convinta che oggi sia più interessato alla sorte della propria anima che non al futuro di Cuba. La figlia Lina non ha dubbi, per lei suo padre Fidel Castro si è riavvicinato alla religione. Un rapporto controverso il suo con la fede, formato dai gesuiti. Fidel nel 62 fu scomunicato da Giovanni XXIII, misura quasi automatica per chi in quel tempo professava il comunismo. Diventato ateo quasi per necessità, Fidel decise così di cancellare sull'isola le festività cattoliche, anche il Natale. Le cose cominciarono a cambiare, dicono in molti, grazie ad un incontro speciale, quello con Giovanni Paolo II, prima a Roma, poi sull'isola, durante lo storico viaggio di Wojtyła nel 98. Castro si spogliò della celebre divisa militare e accolse il Papa polacco in giacca e cravatta con tutti gli onori. Ora a Cuba è atteso un altro papa. Il 27 marzo atterrerà sull'isola Benedetto XVI. In Vaticano non escludono un incontro. Se Fidel vorrà parlare della sua conversione, dicono, il Santo Padre sarà pronto ad ascoltarlo. Il viaggio di Wojtyła regalò a Cuba il ritorno del Natale. Quello di Benedetto XVI potrebbe riservare nuovi colpi di scena. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sono accusati di aver ottenuto pensioni di invalidità pur non avendone diritto, sottraendo indebitamente alle casse statali oltre 1 milione di euro. Con l'accusa di truffa aggravata e danni dello Stato sono stati arrestati a Napoli 32 falsi invalidi. Ed ora il nostro appuntamento quotidiano sull'evasione fiscale. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. Gondolieri, ma sommersi, che dichiarano guadagni bassissimi sfruttando il fatto che per legge non sono obbligati a emettere scontrini o fatture. Capita infatti che gli stessi comprino una casa dal prezzo esorbitante, posseggano auto di lusso e che accendano mutui che stridono con i redditi dichiarati. E capita che non tutti facciano le somme corrette di quante gite a Nolo fanno e quanto incassano dai turisti. Il tutto nonostante ci siano regolamenti comunali e le tariffe siano stabilite visibili su internet al sito www.gondolavenezia.it, dove alla voce il Nolo della gondola si legge che il servizio diurno 40 minuti massimo 6 persone per gondola costa 80 euro, mentre quello notturno dalle ore 19 alle ore 8 costa 100 euro. Il generale Marcello Ravaioli, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Venezia, spiega il metodo investigativo. Selezione di posizioni che avevano un maggiore interesse o pericolosità fiscale, ad esempio vi erano alcuni casi in cui, anche a fronte della proprietà di immobili o dell'assunzione di mutui che non erano compatibili per valore o entità con i redditi dichiarati, si manifestava un'incongruenza. Vi era in realtà, in capo ai soggetti che poi abbiamo verificato, una capacità reddituale superiore a quella dichiarata. A seguito di questo screening poi abbiamo potuto iniziare delle attività di osservazione e delle indagini di carattere bancario finanziario. Nel periodo dal 2008 al primo semestre 2011 sono state svolte 19 verifiche fiscali nei confronti di altrettanti gondolieri. In tutto 872.000 euro circa di ricavi non dichiarati. E ora la scommessa è fare emergere tutto il sommerso in laguna. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Napoli, quartiere collinare del Vomero, chiude dopo 40 anni la storica libreria Guida, 12 dipendenti. All'esterno dell'ingresso principale un manifesto di spiegazioni: affitto troppo alto, da 4.000 a 18.000 euro. Intervengano le istituzioni, chiede il presidente della Quinta Municipalità Mario Coppeto, che sollecita anche un'attenzione della magistratura. È uno schiaffo alla cultura, al sapere, ai luoghi di incontro. La libreria Guida Merliani è stata da sempre, da quando ha aperto i battenti, frequentata da Pasolini, frequentata da autori di straordinaria importanza, un punto di riferimento per tanti giovani. E io sono lanciato un allarme già tempo fa. Prima, quando ho incontrato il procuratore Lepore, poi recentemente anche con il nuovo questore, che su un territorio come il Vomero, un territorio molto appetito dal commercio nel senso più vago, possa essere, come dire, un luogo dove facilmente si possono riciclare danari sporchi investendo in attività legali. Non a caso io ho lanciato il tema il Vomero come lavanderia del danaro. Siamo molto preoccupati e su questo chiediamo un'estrema vigilanza. Lanciamo un appello anche ai proprietari degli immobili: attenti a chi vi mettete in casa. Per una libreria che chiude ce n'è un'altra che proprio oggi festeggia invece i suoi 40 anni. Parliamo della Libreria dei Ragazzi di Milano. Sentiamo la presidente Renata Gorgani. Beh, i libri per bambini e per ragazzi sono intanto una cosa molto speciale, perché risentono molto meno dei problemi del mercato, gli ebook, eccetera. I genitori, anche se magari comprano qualche libro in meno per loro, pensano ancora, per fortuna, che è bene che i bambini leggano, è bene che i bambini abbiano in mano un libro, che questo è molto importante per il loro futuro, e quindi continuano a comprare libri per ragazzi. In particolare noi, oltre ai libri nella libreria, offriamo anche tantissime opportunità di incontro con gli autori, invitiamo tantissime classi delle scuole e questi bambini poi tornano perché hanno trovato la libreria un luogo divertente. Insomma, l'editoria è in mano ai più giovani. Beh, i più giovani sono sempre stati i più forti lettori, hanno sempre letto più degli adulti, si perdono poi un po' per strada quando diventano grandi, eccetera, e continua a essere così, e questo credo che sia un grande motivo di essere contenti per il nostro futuro. Questo GR24 è stato curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Fabio Cantadori. Prossimo GR24 alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.